GR24, il sole 24 ore. Trovata morta la trans Brenda coinvolta nel caso Marrazzo, la procura indaga per omicidio volontario. Giustizia, Napolitano, rispettare gli equilibri istituzionali, Berlusconi riforma prioritaria per il governo. Istat, più italiani collegati ad internet tra gli adolescenti e boom della lettura. Calcio, la FIFA dice no a Trapattoni, non si rigioca Francia-Irlanda. Buona giornata dalla redazione e da Anna Rita D'Ambrosio. In primo piano dunque sempre il caso della seconda vittima nella vicenda Marrazzo. È stata trovata carbonizzata all'alba di oggi la trans Brenda in via Due Ponti a Roma. E noi ci colleghiamo proprio con via Due Ponti con Chiara Di Michele. Chiara. Sì, buongiorno. Si cerca di fare chiarezza sulla morte del transessuale Brenda coinvolto nella vicenda dell'ex presidente della regione Marrazzo. Mi trovo in via Due Ponti 180 davanti all'appartamento della vittima trovata questa notte morta asfissiata in casa sua dal fumo scaturito vicino a un scaturito da un incendio, probabilmente l'incendio scaturito vicino a un borsone collocato all'ingresso dell'appartamento. La procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio volontario, i magistrati hanno disposto l'autopsia, gli esami tossicologici e ordinato il sequestro del computer della vittima trovato nel lavandino come se immerso nell'acqua, il che farebbe presupporre un gesto volontario per rendere il PC inutilizzabile. Tante dunque le domande, poche ancora le risposte. Ascoltiamo intanto la dichiarazione di un transessuale amico di Brenda, si chiama Barbara, vive in un appartamento vicino a quello della vittima, in un altro palazzo però, e che sostiene di aver visto Brenda ieri sera intorno alle 9:30. Sentiamo. Non parlate niente, come sempre, calcheremo, ha preso un bicchiere di qualcosa per bere, di ballantare, e dopo lei ha fatto la strada di lei, ha fatto a mia, scusa. Ho lasciato lei proprio no parcheggio, io ho andato a casa a mi truccare per poter andare là fuori, va bene? Barbara era molto scossa e incalzato dai giornalisti ha anche detto qualcuno potrebbe averla uccisa, non so chi. Per il momento da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Chiara Di Michele, indagini dunque in corso, un mistero davvero fitto, sotto ci sono cose molto pesanti, ha detto sibillinamente oggi a Milano ai giornalisti Fabrizio Corona. La politica adesso con la giustizia sempre in primo piano, a Roma oggi la conferenza nazionale dell'avvocatura in diretta, Alessandra Schepisi, Alessandra. Sì, buongiorno, una due giorni di confronto tra politica e giustizia che si è aperta con un appello al dialogo da parte delle massime cariche dello Stato. Le riforme della giustizia devono avvenire nel rispetto dei corretti equilibri istituzionali, ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, che ha inviato un messaggio alla platea, così come il Presidente della Camera Fini, che si è augurato confronto e riflessione, mentre il Premier Berlusconi, sempre in un messaggio, ha ribadito che la riforma della giustizia è una priorità. Presente il Presidente del Senato Schifani, che ha invitato a moderare i toni, basta con lo scontro tra le parti, è urgente una riforma della giustizia, ha detto Schifani, che abbrevi i tempi dei procedimenti penali, ma questa riforma non deve essere fatta né contro la magistratura né contro i cittadini, sentiamolo. Riformare la giustizia è un compito comunque alto e difficile, non dobbiamo e non possiamo arroccarci su posizioni precostituite. Non servono e non possono essere eretti muri che impediscono il libero confronto, che potrà anche essere aspro e fortemente dialettico, ma che dovrà essere connotato da volontà costruttiva da parte di tutti. In particolare si è parlato molto di processo breve questa mattina, parere negativo è stato ribadito dall'Associazione Nazionale Magistrati. Sentiamo il segretario Luca Palamara. Posso tranquillamente dire che il dato dell'1% è un dato che non esiste nella realtà. Ovviamente potremo essere più precisi nei prossimi giorni quando avremo maggiore compiutezza dei dati, ma dire che solo l'1% i processi che saranno travolti significa non conoscere quella che è la realtà giudiziaria. Il giudizio dell'avvocatura invece è positivo, siamo d'accordo sia sul profilo civile che penale, ha detto Maurizio De Tilla, presidente dell'Ordine, ma occorre dare più risorse e più strutture. E a tutte queste istanze risponderà il ministro della Giustizia Alfano che verrà qui alle 15. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Giustizia, un tema che si collega strettamente alla vicenda di Nicola Cosentino, sottosegretario all'economia, che è coinvolto in un'inchiesta campana. È stato richiesto per lui l'arresto. Credo, ha detto poco fa Nicola Cosentino, che tra qualche giorno la mia vicenda sarà archiviata. Si tratta di un esempio di cattivo rapporto tra giustizia e politica, ha aggiunto Cosentino, che in questo momento è ai minimi storici. Lo ha detto parlando con i cronisti in Transatlantico poco fa a proposito della richiesta di custodia avanzata dai magistrati campani. E di giustizia, anche di giustizia, ma non solo, si parla nell'annuario statistico dell'Istat pubblicato oggi. Tutti i dettagli in diretta da Simone Spezia. Simone, qual è il dato più interessante? Allora, Narita, mi sembra che il dato più interessante di questa giornata sia sicuramente quello che riguarda la lettura. Già nei mesi scorsi avevamo identificato una tendenza di questo tipo, ma adesso c'è l'Istat ad accertarlo scientificamente, ossia che i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni nel tempo libero per il 65% scelgono di leggere un libro, contro un 45% che è la media nazionale. Insomma, sarà Twilight, sarà l'effetto Federico Moccia piuttosto che quello Harry Potter, però sembra evidentemente che né i social network né internet abbiano il potere di allontanare i ragazzi dalla lettura. Al di là di questo ci sono altri dati interessanti, quelli economici. Per esempio, segnala l'Istat che la spesa media delle famiglie nel 2008, e questo forse in parte era da attendersi vista la crisi economica, è salita di appena 5 euro nel 2008. Ci sono dati sull'occupazione: nel 2008 ci sono stati 23,4 milioni di occupati, e cresce, come continua a crescere da anni, la quota degli immigrati. Cresce anche la fecondità degli italiani, in lieve crescita, 1,41 figli per donna mediamente. Sempre a proposito di economia, c'è l'insoddisfazione da parte degli italiani per la propria condizione economica, che riguarda un italiano su due. Per chiudere il tema al quale accennavi te, il tema della giustizia, in particolare quello delle carceri, anche qua l'Istat certifica un dato che in parte avevamo, ossia che le carceri stanno scoppiando di sovraffollamento in tutte le regioni. La situazione limite è quella in Emilia-Romagna, dove ci sono mediamente 179 detenuti per 100 posti letto. A te. Grazie a Simone Spezia. La cronaca giudiziaria: toglieremo presto la residenza perché fittizia ad oltre 350 italiani. Lo annuncia a Radio 24 il ministro delle finanze di San Marino, Gabriele Gatti. Il giro di vite è stato accelerato dopo l'indagine della procura di Forlì, che a maggio ha decapitato i vertici della cassa di risparmio del Titano e di Delta. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Ci possono essere anche alcuni cittadini italiani che hanno avuto la residenza e che non risiedono effettivamente a San Marino. Stiamo finendo proprio in questi giorni delle verifiche e poi attueremo anche dei provvedimenti conseguenti. Siamo sull'ordine di 300-350 e quindi a quel noi punto gli toglieremo la residenza. Ci aiuti a capire qualcosa in più del profilo di questi 300 italiani falsamente residenti a San Marino? Piccoli imprenditori, manager? Direi di sì. Ma anche funzionari privati. Noi ad esempio negli anni, io mi ricordo, ci sono stati tanti cosiddetti VIP che volevano venire a risiedere a San Marino, no? Non so, attori o persone del mondo dello sport, dello spettacolo, eccetera. Ecco, noi sotto quell'aspetto non abbiamo mai concesso residenze, perché come non abbiamo voluto la casa da gioco, non vogliamo delle residenze di comodo, no? Perché queste palesemente sarebbero residenze di comodo. L'intervista integrale al ministro delle finanze di San Marino, vi ricordo, andrà in onda domenica alle 19.30 nella rubrica Storiacce. Adesso parliamo del fatturato dell'industria italiana, che torna a crescere. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Segnali positivi dall'Istat per il sistema paese. Torna infatti a crescere il fatturato dell'industria italiana. A settembre, evidenzia l'Istituto di Statistica, le vendite sono aumentate del 2-3% su agosto, dato migliore questo dal giugno 2008. Anno su anno resta però il segno negativo, con un calo del 17,4%. L'aumento congiunturale del fatturato, spiega l'Istat, è dovuto prevalentemente alla componente estera. Si sono rimessi in moto dunque gli ordinativi, che crescono a settembre del 5,2% rispetto ad agosto, mentre sono scesi scesi del 24% se paragonati a settembre di un anno fa. A trainare la ripresa sono in particolare le vendite dei beni strumentali più 7% e quelle dei beni di consumo. I dati Istat, commenta il ministro per lo sviluppo economico Scajola, ribadiscono, pur nella parzialità del dato mensile, che la ripresa si sta rafforzando e lasciano prevedere anche per i prossimi mesi una tendenza positiva. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. E da Roma, nell'ambito della settimana della cultura d'impresa, un convegno a cui sta partecipando anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che evidentemente non ha ancora commentato questi dati. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, con Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia non ha ancora commentato questi dati, ma ha parlato di responsabilità sociale, che ora deve entrare nel DNA delle piccole e medie imprese come valore fondamentale. La presidente di Confindustria ha in questo modo concluso il convegno di oggi sull'economia sociale, che si svolge nell'ambito dell'ottava settimana della cultura d'impresa. È una giornata di dibattiti sul tema della responsabilità sociale, appunto, che ha visto intervenire manager e imprenditori delle più importanti aziende italiane, Eni, Intesa San Paolo, Barilla, che hanno messo in pratica strategie concrete. Nonostante la crisi, qualche passo avanti è stato fatto, ha detto la presidente Marcegaglia, ma c'è ancora da lavorare. Ospite alla sede di Confindustria in Viale dell'Astronomia anche il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che ha ricordato quanto le scelte responsabili sui temi dell'energia e dell'ambiente siano un'opportunità per le aziende. Nei prossimi anni la crescita arriverà proprio da questi settori, ha aggiunto la presidente Marcegaglia, e tutto questo anche in vista del vertice di dicembre a Copenaghen sui cambiamenti climatici, dove il mondo decide se investire davvero sullo sviluppo sostenibile. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara, e termina il nostro viaggio nelle iniziative delle singole aziende sempre per la settimana della cultura d'impresa. Eni inaugura il centro didattico Energia e Territorio a Cacciatizze, vicino a Potenza, lanciata una collaborazione con le scuole della Val Camastra in Basilicata. Lucia Nardi, responsabile delle attività culturali dell'Eni, al microfono di Adriana Fracchia. Si tratta di un'iniziativa pensata per le scuole elementari, in particolare per le classi quarte e quinte, che ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi, farli riflettere sull'energia in generale, quindi non soltanto sul mondo degli idrocarburi e del petrolio, ma più in generale su tutto ciò che produce energia. Per farli riflettere su questo abbiamo pensato di chiedergli o un breve video o una fotografia su qualche cosa che per loro rappresenta l'energia, e di immaginare, fare un montaggio di tutti questi pensieri che girano attorno all'energia, per così avere un ritorno su come il bambino immagina l'energia in generale. Pochissimi hanno ripreso i nostri impianti, che sono, voglio dire, la quintessenza dell'energia, perché lì c'è petrolio, quindi quella è sicuramente energia, ma pochi sono, come dire, rimasti affascinati da questo. Ci hanno invece raccontato che cos'è l'energia come movimento, come vento, come colori addirittura, insomma molto, un ritorno molto interessante. E ancora una buona giornata da Narita D'Ambrosio e dalla redazione. Le notizie principali di questa edizione: nella prima parte abbiamo parlato della morte misteriosa della trans Brenda, coinvolta nel caso Marrazzo. La procura indaga per omicidio volontario. Sempre a Roma, alla conferenza nazionale sull'avvocatura, si sta discutendo della riforma della giustizia, riforma prioritaria, ha detto Berlusconi. Napolitano ha invitato a rispettare gli equilibri istituzionali. Abbiamo parlato anche dell'annuario dell'Istat, c'è una notizia curiosa ma buona allo stesso tempo tra gli adolescenti e boom della lettura. Ora, come detto, andiamo a Napoli, dove si celebra la giornata dei diritti dell'infanzia dell'ONU. Dure critiche sono arrivate al governo da parte delle associazioni e dell'UNICEF. Un piano sarà varato entro l'inizio del 2010, ha promesso il sottosegretario al welfare Eugenia Roccella, ma intanto i fondi per le case famiglia scarseggiano e la situazione è particolarmente drammatica proprio a Napoli. Il sindaco della città sostiene che il comune vanta un credito da parte dello Stato di 96 milioni di euro. E mentre al convegno si discute, a poche centinaia di metri, nella sua casa famiglia, Liliana Pagano si occupa di bambini abbandonati da 20 anni. Le abbiamo chiesto se arriveranno i fondi. Arrivano sempre a singhiozzi. Come fate ad andare avanti? Io fortunatamente c'ho mio marito che lavora. Le altre case famiglia? Tante case famiglie praticamente non hanno i fondi per poterli portare avanti. Ci sono parecchie case famiglie che sono iscritte in una banca dove anticipano i soldi e poi quando il comune paga dovrebbero pagare pure il 10-20% di interessi. Quindi hanno fatto dei debiti? Hanno fatto dei debiti, sì. C'è stato anche qualcuno che ha chiuso. E i bambini che fine hanno fatto? Chi li ha restituiti, chi li ha portati indietro, chi li ha fatti passare in un'altra casa famiglia perché ha dovuto chiudere per forza, si sono liberati. Per me no, non è così. Per me la prima cosa, la cosa più importante sono i bambini. Io non farei mai traumatizzare ulteriormente i bambini portandoli in un'altra casa famiglia, assolutamente no. Quanti bambini ci sono adesso nella sua casa? Sei bambini, sei. Dai sei mesi in su? Sì, da sei mesi. È un bambino però sei mesi che si porta come un bambino di 2 o 3, perché è proprio piccolo, piccolo, piccolo. È un gemello, praticamente è arrivato che non si sa se si sospetta di maltrattamento. È un bambino che ha un tubicino in testa che arriva fin giù nel pancino. Lei si sente supportata dallo Stato? No. Di diritti dell'infanzia negati si parlerà anche nella trasmissione Figli di un Dio minore domenica prossima alle 14:15. Ci spostiamo all'estero per i commenti post nomine europee. Quella che fa più discutere è l'elezione della britannica Catherine Ashton, neo alto rappresentante della politica estera europea, al posto di Massimo D'Alema. Of quiet diplomacy. Dal cappello del conclave europeo, a sorpresa, a sbaragliare il nostro Massimo D'Alema è stata lei, la baronessa laburista Catherine Ashton. Semi sconosciuta in patria, Lady Ashton ci pensa da sola a presentarsi. La prima donna commissario europeo britannica, la prima donna commissario al commercio ed ora dice di essere fiera di essere la prima donna alto rappresentante per la politica estera europea. Gordon Brown ha dato così scacco al predecessore Tony Blair, che sembrava il grande favorito, e a dispetto dell'antieuropeismo britannico ha piazzato sulla seconda poltrona europea la sua Lady Ashton, per 8 anni sottosegretario laburista prima di arrivare a Bruxelles, che difende ora la sua competenza citando i precedenti negoziati con Corea, Cina e Stati Uniti e ora promette di fare del suo meglio per l'Europa. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini si è rivolta ai giovani e agli studenti che hanno manifestato nei giorni scorsi e li ha invitati a rimboccarsi le maniche, lavorando, ha detto, e cercando non solo di lamentarsi, ma di comprendere i problemi e offrire soluzioni. Alla scuola, al 5 in condotta per chi occupa gli istituti scolastici, era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Stavolta in trincea sembrano volerci andare i presidi, stanchi del solito rito autunnale delle occupazioni delle scuole. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi da parte dell'Onda, molti dirigenti scolastici hanno ammonito: cari studenti, chi occupa ora rischia il 5 in condotta e dunque la bocciatura, perché la scuola, come il diritto allo studio, non sono vostra proprietà. Il nostro sondaggio era questo: dareste il 5 in condotta allo studente che occupa? La linea severa è stata approvata dal 65% di voi. Una linea che piace a Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Colpisce il carattere anche antidemocratico socialmente parlando delle occupazioni, perché poi il ragazzo di livello socioculturale alto può stare anche un mese e mezzo senza andare a scuola, poi i genitori hanno i soldi per pagare le ripetizioni, ma il figlio dell'immigrato, il figlio dell'operaio povero, come fa poi a recuperare questi giorni? Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo di una iniziativa che ci riguarda da vicino, è la Parola dipinta, opera in 4 volumi delle edizioni Musei Vaticani e del Sole 24 Ore. Da oggi in edicola con Il Sole 24 Ore il primo volume. Ce ne parla Salvatore Carruba, presidente di 24 Ore Motta Cultura. La Parola dipinta, l'iniziativa editoriale che prende oggi le mosse e che accompagnerà per 4 settimane Il Sole 24 Ore, consente una duplice dissezione del ciclo della Sistina. Permette una lettura ravvicinata di ogni particolare dei cicli pittorici e, attraverso il commento di Monsignor Roberto Zagnoli, ci aiuta a collegare la narrazione alle immagini, restituendo il pathos e l'intensità della Bibbia e dell'Apocalisse. Alla Cappella Sistina non c'è solo Michelangelo, dei 4 volumi della serie, infatti 2 centrali sono dedicati con gli stessi criteri ai grandi pittori che segnarono il definitivo avvento del Rinascimento, tra i quali spiccano i nomi di Perugino e Botticelli. Qualche giorno fa, nel presentare quest'opera nella stessa Cappella Sistina, Antonio Paolucci, che è il direttore dei Musei Vaticani, nonché curatore scientifico dei volumi, ha osservato come questa opera capitale della civiltà andrebbe ammirata e meditata nel silenzio e nella riflessione, una condizione pressoché irraggiungibile per chi magari non sia un cardinale in conclave. E allora questi testi ci danno un'opportunità incredibile, perché la qualità e l'eccezionalità delle immagini, assieme alla profondità e alla chiarezza dei testi, ci permette di avvicinarci all'emozione di quella condizione impossibile. Ci permette di sollevarci su un ideale ponteggio, a sfiorare gli affreschi e a immergerci nel testo delle Sacre Scritture, di cui cogliere il senso attraverso alcune tra le più drammatiche testimonianze che l'arte ci abbia lasciato. La pagina sportiva si apre con il calcio. La FIFA ha respinto la richiesta della federazione irlandese di far ripetere la partita con la Francia. La sfida, che ha permesso ai transalpini di qualificarsi per i mondiali, era stata decisa da una rete viziata da un evidente fallo di mano del francese Henry. Lutto nel mondo dell'alpinismo. È morto Lino Lacedelli, uno dei conquistatori del K2. Aveva 84 anni. Le foto delle sue imprese sono tutte in bianco e nero, incastonate tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso. Quei chiodi, quelle corde, quei picconi che si scorgono tra le mani di Lino Lacedelli sono talmente lontani dagli attrezzi raffinati a disposizione oggi da fare quasi tenerezza. Eppure con quegli strumenti rudimentali Lacedelli scalava pareti impossibili, disegnava strade impensabili. Il più grande rocciatore di sempre, come lo ricorda Reinhold Messner. Il suo nome è nella leggenda da 55 anni. Insieme ad Achille Compagnoni, il 31 luglio del 54 raggiunse per la prima volta nella storia la vetta del K2. Un'impresa epica, come enorme fu la striscia di polemiche che la seguì. A differenza del compagno di scalata, Lacedelli anni dopo ammise che la versione data era falsa e riconobbe i meriti del giovane Walter Bonatti. Per Messner un grande merito. Oggi sappiamo che la salita del K2 è stata basata fisicamente e anche psichicamente sulle spalle di Bonatti, però Lacedelli e i compagnoni erano i conquistatori, bisogna poi raccontare tutta la storia. Secondo me, con la correzione del CAI, della storia originale lasciata da Desio, abbiamo adesso una storia pulitissima del K2, e spero che anche le generazioni future sanno come sono andate le cose. La macchia dunque è cancellata, di Lacedelli resterà solo il ricordo delle imprese compiute. Massimo Di Scienza, Gere 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, vi lascio a Buongiorno America, grazie in regia a Carmelo Lauricella, aggiornamenti del GR alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.